Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Anche se sapessi che domani il mondo andrà in pezzi, vorrei comunque piantare il mio albero di mele. Martin Luther King. Domenica 29 marzo, benvenuti nel giardino di Radio 24, l'unico al momento dove possiamo ritrovarci insieme. Anzi, a questo proposito vorrei chiedere a chi ha la fortuna di avere un giardino oppure un orto che purtroppo in questo momento si sta godendo da solo di mandarmi fotografie in modo che questa primavera in fiore, nonostante tutto, possiamo condividerla. La mail la trovate anche sul sito di Radio 24, in ogni modo è facile da ricordare, ilgiardinosegreto@radio24.it. Ma oggi non di fioriture primaverili parliamo, bensì di orti urbani e orti sul balcone. Vi stupirà, ma sono convinta che sfruttare questo complicato e drammatico periodo di isolamento, tornando alla terra, anche attraverso dei vasi, possa avere una grande valenza terapeutica e spero che ascoltando questa puntata potrete rendervene conto. Tra l'altro ho l'interlocutrice perfetta, perché lei, pur essendo ormai un'esperta, è nata e cresciuta in città, in appartamento, lontano dalla natura, e quindi sa bene qual è la situazione dei cittadini che non hanno alcuna dimestichezza con le piante e con i semi, e proprio per questo ha una capacità che sembra innata a trasmettere sapere partendo da zero. Lo fa con i suoi libri e lo fa con la sua attività, perché si occupa di educazione ambientale globale attraverso l'orticoltura sinergica e la permacultura. Sto parlando dell'autrice de L'Orto Sinergico, guida per ortolani in erba, la napoletana Marina Ferrara. Ben trovata al Giardino Segreto. Grazie, buongiorno. Sì, in effetti proprio come dici tu, io sono nata e cresciuta in città, in un appartamento come molti di noi, quindi senza neanche diciamo il contatto che alcuni fortunati hanno avuto attraverso i nonni, con tutta quella dimensione un po' rurale. Tutto questo mi è assolutamente mancato e poi in effetti da ragazza ho partecipato ad una specie di workshop estivo dedicato alla decrescita, no? Quindi un po' agli stili di vita sostenibili, da un punto di vista ecologico, ambientale, politico, eccetera. E lì per la prima volta ho incontrato l'orticoltura sinergica. E per me è stata una rivelazione quando per la prima volta ho messo le mani nella terra, ho scoperto che c'era tutta una parte importantissima della mia vita con cui non avevo avuto mai la possibilità di entrare in contatto e quindi poi non ho mai più smesso. Quanti anni avevi? Avevo circa 25 anni. Quindi l'epifania è venuta a quell'età, a 25 anni e sei partita da zero. Sì, decisamente non avevo mai avuto l'opportunità di fare una cosa banale come raccogliere un pomodoro e mangiarlo al momento, ancora caldo, al sole, una cosa che veramente è stata un'esperienza che mi ha stravolta in qualche modo, soprattutto perché poi in effetti entrare in contatto con la terra e farlo, diciamo, nella maniera giusta, tra virgolette, cioè con un approccio alla terra rispettoso, inserito all'interno di un'esperienza di coltivazione naturale, è veramente un grandissimo, straordinario riavvicinamento alla natura e quindi con tutta una parte di noi stessi, una dimensione che magari è sopita, ma che naturalmente ci appartiene, perché noi della natura facciamo parte. Marina Ferrara, tu sei di Napoli, vivi a Portici, il tuo orto urbano è a Portici, ma immagino non sotto casa, perché tu vivi in un condominio. Esatto, non ho la fortuna di avere il giardino fuori casa con l'orto fuori casa, ma ho una fortuna ancora più bella che quella della condivisione, perché il mio orto urbano è all'interno di uno spazio associativo, di un'associazione che si chiama Più Orti in Città, che ha salvato uno spazio miracolosamente, diciamo, sopravvissuto alle speculazioni edilizie del passato, che era un luogo abbandonato, in cui invece attualmente ci sono 38 orti, tutti coltivati con metodi naturali, fra cui il mio che è un orto sinergico, e degli spazi comuni in cui in effetti noi riscopriamo la ruralità, tutte delle tradizioni che in qualche modo lavorano molto sul senso di comunità e sul senso, diciamo, di appartenenza e connessione con la terra. Comunità, condivisione sono tutte parole che in questo momento non possiamo, ahimè, usare. Chi ha un orto sotto casa e lo può coltivare da solo è davvero una persona fortunata, ma chi invece appunto ha questi orti a distanza, come fa? Li può raggiungere, li può curare? Non è ben chiaro? Questo no, non è ancora chiaro. Noi per esempio qui su scala locale, nel nostro territorio, stiamo proprio cercando di interrogare le istituzioni per capire se c'è possibile raggiungere fisicamente quello spazio, ovviamente mantenendo tutte le opportune norme di sicurezza, ma per potersi continuare a prendere cura di quel luogo e delle nostre piantine e tra l'altro di noi stessi, perché parliamo anche di quello naturalmente. Quando si parla di coltivare la terra si tratta di prendersi cura della terra ma anche di se stessi. Qualcuno si starà chiedendo perché parlare di orti proprio in un momento come questo. Io penso, diciamo, che l'esperienza di un orto abbia un'infinita varietà di quantità di benefici. Benefici psicofisici innanzitutto, perché coltivare, chiunque abbia provato questa esperienza, mettere le mani nella terra, seminare, vedere poi i frutti del proprio lavoro, ha degli straordinari effetti sulla persona. È una esperienza di cui ha senso parlare anche in un momento come questo, perché è un'esperienza che ci porta in qualche modo a riscoprire un ruolo diverso nella nostra società, non solo come consumatori che vanno al mercato e comprano del cibo, ma come creatori, no? Co-creatori di qualcosa insieme alla natura. E poi è anche un'esperienza, diciamo, che è incredibile dal punto di vista dei sensi, quindi assaporare queste cose così meravigliosamente buone come mai ci è capitato, come i prodotti del nostro orto. E anche, diciamo, poi prodotti che sono buoni anche con la terra in qualche modo, no? Che hanno un impatto positivo con sulla terra e non negativo, che non sono basati su uno sfruttamento, un depauperamento della terra, perché noi stiamo parlando sempre di forme di coltivazione ovviamente naturali. Tutto questo, diciamo, è una grande riscoperta anche del valore del cibo, della fatica che c'è dietro al cibo. Quindi anche capire che chi per noi produce quel cibo è un eroe, dovrebbe essere, diciamo, in quanto tale valorizzato, e al di là dei prezzi, diciamo, al mercato che può avere al chilo un pomodoro, il pomodoro o le melanzane o quant'altro. E poi in questo momento, secondo me, è veramente molto importante parlare della possibilità, dell'opportunità di coltivare. Perché questa è una fase in cui, lo sappiamo, no? Tutti noi viviamo un momento di isolamento, però in qualche modo, secondo me, il contatto con la terra può essere un'opportunità per in qualche modo sfruttare questo tempo di isolamento al quale non ci possiamo sottrarre. Allora, noi stiamo vivendo un momento di isolamento, lo sappiamo, e soprattutto di convivenza forzata. Dai media, anche da Radio 24, arrivano continui suggerimenti su come trascorrere questo tempo. Nicoletta Carbone consiglia di cucinare, Alessandra Tedesco consiglia i libri da leggere, Marta Cagnola, Franco D'Assisti parlano dei film che possiamo recuperare. Però, insomma, la situazione è anche abbastanza seria in certi momenti. Alzi la mano chi non ha mai sentito un urlo partire se non dal proprio appartamento, da quello di fianco, perché la convivenza forzata porta anche a questo. E le persone ci dicono: noi viviamo in un piccolo trilocale con i bambini che devono studiare, andare a scuola, i genitori che fanno lo smart, non c'è tempo, abbiamo mille difficoltà per dedicarci a queste cose. Eppure noi, Marina Ferrara, siamo qui a parlare di piante, di orti. E se non abbiamo un pezzo di terra, di orti sul balcone, perché fanno bene. E io devo dire, ho conosciuto Marina Ferrara attraverso il suo libro L'Orto Sinergico, edizioni L'Età dell'Acquario. Io abito al 7° piano in un condominio di Milano, anche tu stai in un condominio, Marina, quindi io non ho un orto, però aver letto questo libro mi dà forza, mi dà sicurezza, perché io a questo punto so come potrei fare, perché sei una grande divulgatrice, è tutto molto chiaro, e anche davvero chi parte da zero attraverso questi libri può avere delle informazioni più che utili, un tesoro. Grazie veramente, sono contenta, ecco, se questi libri possono essere dei semini che poi germogliano in situazioni e famiglie diverse, anche in momenti di crisi come questo. Allora, L'Orto Sinergico, Gli Orti Sospesi, ma noi siamo alla radio e anche con questo mezzo possiamo divulgare. E allora, come partire da zero per un orto urbano? Immagino i fortunati che hanno un giardinetto che usano adesso soltanto per far giocare i bambini o far uscire il gatto. Ecco, questo potrebbe essere il momento, visto che si sta più in casa e si ha più tempo, per pensare ad un orto e in futuro poter anche dire a noi stessi: in qualche modo ho utilizzato bene il momento della quarantena. Senz'altro, e come veramente ci tengo a ribadire quanto poi l'esperienza di coltivare un orto possa essere veramente terapeutica, ma veramente molto, diciamo, distensiva, e quanto poi possa essere una grandissima opportunità anche per rallentare i nostri ritmi e, perché no, sfruttare questo tempo, diciamo, per non per vivere con frustrazione anche questa, diciamo, questa chiusura all'interno della propria abitazione o del proprio giardino, ma per viverlo come un momento di radicamento, di contatto con la terra e con la natura, che comunque ricordiamo in questo momento è nella sua fase di massima espressione, perché è arrivata la primavera e nonostante diciamo noi stiamo vivendo come specie un momento di difficoltà, siamo circondati da uccellini che nidificano e da alberi che fioriscono, perfino i nostri animali domestici non sembrano assolutamente turbati da questa circostanza, anzi sono lieti di averci a casa. Quindi riprendere contatto con il fatto che apparteniamo in qualche modo a un contesto più ampio che quello naturale sicuramente può confortarci e darci anche molto più ottimismo e spirito propositivo, secondo me, rispetto a quello che sta accadendo. Del resto seminare è già un gesto di ottimismo. Se seminiamo non possiamo non esserlo. È la fine di marzo, Marina Ferrara, da dove partiamo con il nostro orto? Beh, allora, questo è il momento perfetto per cominciare un orto. Naturalmente ribadisco che ha senso un'esperienza di questo tipo, soprattutto per dei cittadini che vivono in città, per quindi chi vive una dimensione urbana, soltanto se veramente si fa un'esperienza di coltivazione naturale. E per un'esperienza di coltivazione naturale, quindi rispettosa della natura, che non vada a utilizzare concimi, fertilizzanti o quant'altro, in realtà quello di cui abbiamo bisogno è davvero poco. Sicuramente la capacità di prendersi cura del proprio spazio, e la pazienza, il sapere attendere, che è un valore secondo me che va molto riscoperto e che in questo periodo potrebbe tornarci molto utile. E con la pazienza arrivano le sorprese, perché coltivare è una perenne sorpresa. Sì, davvero tante, cioè, e si ritorna un po' bambini quando si comincia a coltivare un orto. E questo è senz'altro il momento perfetto per cominciare, è il momento perfetto per iniziare a seminare insalate, fagiolini, bietole, carote, zucche, zucchine, davvero, davvero di tutto. Ci sono delle piccole buone pratiche come quello per esempio di non sradicare quando si raccoglie, no? Ma di tagliare per esempio all'altezza del colletto della pianta per poi raccogliere di nuovo l'insalata una seconda volta, perché la pianta ovviamente farà ricrescere le sue foglie, e questo vale per tantissime altre colture. Quindi poi ci sono anche tante piccole buone pratiche che ci possono aiutare a godere più e più volte dei frutti del nostro lavoro. In un piccolo orto lombardo quali piante possiamo coltivare l'una accanto all'altra? Allora, ecco, questa è una bella domanda sull'una accanto all'altra, perché in effetti, come giustamente dicevi tu, introducevi tu, quello che io cerco di promuovere è un orto sinergico. L'orto sinergico è un orto che in effetti cerca all'interno di un campo coltivato tutte quelle che sono le dinamiche che si vedono anche nei suoli selvatici e quindi anche la forte diversificazione delle piantine che si vanno a mettere nell'orto e il fatto che nell'orto sinergico noi non abbiamo file ad esempio di pomodori o file di zucchine, ma abbiamo una mescolanza, cioè si mettono piantine una accanto alle altre che in qualche modo non sono messe a caso, ma sono messe in base a quelle che si chiamano consociazioni, cioè piante che si aiutano fra di loro se messe vicino, ovviamente a beneficio di tutte le coltivazioni. Quindi ad esempio mettere il pomodoro accanto al basilico, mettere una liliacea che può essere un aglio e una cipolla e poi mettere non lontano dei legumi, tutto questo diciamo crea a vista magari una confusione perché noi siamo abituati a quelle belle file dritte di piantine tutte uguali. Però in realtà noi non stiamo facendo altro che imparare la lezione della natura che usa la biodiversità proprio per rafforzarsi e per autofertilizzare il suolo. Pomodoro insieme al basilico, questo l'ho memorizzato, per le altre consociazioni torniamo tra poco, le ripeteremo, approfondiremo e poi vedremo anche come un orto possiamo crearlo sul balcone o sul terrazzo. E parleremo anche di fiori, scoprendo che non sono solo belli ma anche utili. Ci sentiamo tra un attimo. Ogni nostra storia, piccola o grande, racconta di una linea. Una soglia oltre la quale siamo passati, a volte senza accorgercene, altre dopo mesi o anni di lavoro. Linea d'ombra non si limita più a raccontare i vizi capitali, ma tutte quelle storie che hanno segnato un confine nella nostra vita. Scrivetele in una o due pagine e inviatecele a lineedombra@radio24.it. Noi le prendiamo e ci costruiamo intorno a una puntata. Linea d'ombra di Matteo Caccia. Da lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. Il giardino segreto. Dimenticare come scavare la terra e prendersi cura del suolo è dimenticare noi stessi. Mahatma Gandhi. Seminare o mettere una piantina di basilico all'ombra di una di pomodoro fa bene ad entrambe e avremo una resa migliore. È quello che ci sta spiegando in questa puntata dedicata agli orti urbani e sui balconi Marina Ferrara, laureata in economia dell'ambiente, nonché scrittrice, divulgatrice, anche attraverso un blog che si chiama Ecopasticci. Marina. Sì, è una delle consociazioni più famose, quella del basilico che gode dell'ombra dei pomodori e rende più aromatici i pomodori, e che poi andrebbe accompagnata sempre almeno da, per esempio, una piantina di fagioli, che invece fissa l'azoto nel terreno, no? Quindi è come se fertilizzassimo il terreno in modo naturale, e quindi i nostri pomodori poi ne possono beneficiare crescendo meglio e avendo più sostanza nutritiva nel suolo da cui vanno ad attingere. Pomodoro, basilico, fagioli stanno bene insieme l'uno accanto all'altro e poi? Poi ad esempio delle cipolle si potrebbero mettere sempre vicino, che hanno un'azione antibatterica. E poi una cosa importantissima da non dimenticare mai quando si coltiva sono i fiori. Meglio se sono fiori commestibili, così possono avere più funzioni, ma i fiori attirano, lo sappiamo, gli impollinatori. E quindi sono fondamentali non solo in un'ottica di preservare la biodiversità nel luogo in cui andiamo ad intervenire, ma anche perché più impollinatori abbiamo nel nostro orto, più naturalmente avremo un orto ricco e produttivo. E quindi di solito si mette accanto a queste colture anche, non so, delle piantine di calendule o di tageti o di nasturzi che possono essere mangiati, ma naturalmente sono anche degli splendidi e profumati fiori che attirano api, farfalle e altri impollinatori. E noi che pensavamo che i fiori valessero solo per il loro lato estetico, no, sono anche utili, oltre che commestibili alcuni. Tagete, calendula? Nasturzio anche, sì, ma tanti altri, la stessa camomilla ha tante altre funzioni, la lavanda è uno splendido attrattore per soprattutto le farfalle, ma per tutti gli impollinatori, oltre ad essere una pianta dall'odore stupendo e dall'aspetto, diciamo, come tutti sappiamo, delizioso. Quindi davvero i fiori sono i nostri primissimi alleati nell'orto. Ecco Marina, rispetto a domenica scorsa c'è una buona notizia. Per i florovivaisti da una parte e per noi che vogliamo piante e fiori dall'altra, perché i garden stanno riaprendo. Venerdì scorso è arrivata la conferma dalla Presidenza del Consiglio che piante, fiori, fertilizzanti e così via possono essere venduti e quindi prodotti e trasportati anche in questo momento di emergenza nazionale. Dunque i negozi che se la sentono, che possono farlo, possono riaprire e anche la grande distribuzione può vendere piante. L'appello dei florovivaisti in questo momento è quello di acquistare piante italiane per ridare un po' di fiato al settore. In ogni caso, se non vogliamo uscire di casa, possiamo chiamare garden che si sono attrezzati con la vendita a domicilio, oppure ci sono pur sempre le piattaforme online, oppure Marina? Sicuramente, come dicevi tu, cercando di approvvigionarsi online, questo è vero, sia di piante che di semini. E se sui semi, io brevissimamente voglio aprire la parentesi, cerchiamo di prendere sempre semi biologici che non siano degli ibridi, soprattutto perché questo ci dà la possibilità di riprodurli anno dopo anno e quindi no, di poterli sempre diffondere nel tempo e nello spazio. Ma oltre, diciamo, all'acquisto online ci sono delle altre opportunità o accanto a quello. Ad esempio esistono dei gruppi, che è molto facile rintracciare, di scambi di semi, e questi possono essere fatti anche a distanza, ad esempio via posta. Quindi scambiandosi semi e spedendoseli da un luogo all'altro, ed anche questa è una anche opportunità in qualche modo di socializzazione, sebbene a distanza. Diciamo che la cosa più facile è fare delle ricerche anche sui social network di questi gruppi, ne esistono tantissimi, ci sono gruppi su base locale che si occupano proprio di scambi e custodia dei semi, e parliamo anche in questo caso di semi tradizionali, semi antichi, e questi scambi di semi sono sempre degli scambi gratuiti, i semi non si pagano, fra chi diciamo ha questo approccio alla terra nessuno di noi avrebbe mai il coraggio di chiedere del denaro in cambio di semi, perché i semi sono un bene condiviso e collettivo. E ricordiamo che anche i libri arrivano a casa, e allora l'Orto Sinergico, Marina Ferrara, edizione Età dell'Acquario, e c'è anche il libro Orti Sospesi, e qui mi fermo perché siamo arrivati sui balconi dei cittadini, di tutti coloro che sono messi come me, abito al settimo piano, in un condominio, sono a Milano, ma anche come te a Portici, non abbiamo un pezzo di terra, però possiamo sbizzarrirci con i vasi. Che cosa racconti in Orti Sospesi? Quello che racconto in Orti Sospesi è che tutta la bellissima esperienza di coltivazione, di ritorno alla terra e tutti i benefici che si possono avere attraverso un'esperienza di orto in giardino si può riuscire ad avere anche se non si ha la fortuna di avere un giardino. Quindi se si vive in città e come te e come me semplicemente si dispone di un balcone. In quel caso è possibile, io dico sempre, coltivare tutto. Qualunque cosa è coltivabile anche sul balcone. Naturalmente poi ci sono dei vincoli, dipende dallo spazio che si ha a disposizione, dall'esposizione che si ha rispetto al sole, ma di base noi possiamo coltivare sul nostro balcone qualunque cosa che si possa coltivare all'interno dell'orto, cercando di accostare le piante in modo che le une beneficino delle caratteristiche delle altre. Ma i vasi quanto grandi? Allora, diciamo che naturalmente dipende dallo spazio di cui si dispone. Io dico sempre che l'ideale è disporre di vasi che sono alti almeno una trentina di centimetri. Questa, diciamo, per la coltivazione degli ortaggi, poi naturalmente dipende dagli ortaggi, dall'apparato, ogni ortaggio naturalmente ha un apparato radicale che ha bisogno di estendersi più o meno, però diciamo disponendo di vasi di 30-40 centimetri di profondità, siamo per la maggior parte delle colture, abbiamo diciamo uno spazio sufficiente. E io diciamo anche nel libro suggerisco sempre, anziché andare a comprare dei vasi, se è possibile riutilizzare quanto più possibile delle cose di cui si dispone, dei contenitori, magari anche con la creatività rendendoli più graziosi, perché ecco come ti dicevo l'idea è sempre quella di fare un'esperienza di orto in balcone, ma che sia un'esperienza sempre un'esperienza ecologica, in qualche modo sostenibile. E gli accostamenti sono gli stessi che faremmo all'interno di un orto in pieno campo, quindi come dicevamo per esempio mettere vicino a piante come i peperoncini verdi che sono tra i più famosi che si possono coltivare in balcone, come anche i peperoncini piccanti, mettere ad esempio sempre dei legumi che come dicevamo prima che sanno l'azoto, anche diciamo prima facciamo l'esempio dell'accostamento con i pomodori, ma peperoncini e pomodori fanno parte della stessa famiglia e quindi vanno molto d'accordo con i legumi. Ecco, in questo caso la cassetta quanto deve essere ampia? Una delle possibilità è quello di utilizzare quelle cassettine di legno della frutta, quelle che sono anche al mercato per esporre gli ortaggi, la frutta e la verdura. Quelle per esempio sono un buon esempio di cassetta in cui è possibile mettere due o tre piantine che insieme coesistono, convivono e si aiutano reciprocamente. Poi consideriamo che anche laddove non c'è la condivisione della cassetta, comunque le piante beneficiano della loro vicinanza, pensa ai fiori di cui parlavamo prima, che disposti fra un vaso e l'altro, fra una cassetta e l'altra, ci aiutano naturalmente a creare un piccolo ecosistema sul balcone che possa raggiungere un suo equilibrio. Tra l'altro coltivando un piccolo giardino pensile dedicato a erbe aromatiche, erbe officinali con cui poi possiamo preparare infusi e decotti, scegliendo opportunamente le piante ne possiamo anche creare una piccola oasi per le farfalle, quindi ancora una volta facendo del nostro balcone un piccolo progetto che ha anche un'ambizione più ampia che è quella di tutelare la biodiversità. Quindi le aromatiche? Sì, le aromatiche soprattutto, come ti dicevo anche la lavanda è una di quelle piante di cui diciamo le farfalle beneficiano tantissimo e con cui anche si possono preparare degli infusi e delle tisane, oltre ai classici diciamo sacchetti profumati che oltre a profumare in realtà ricordare che la lavanda è un antidepressivo, quindi in realtà noi di quello odore beneficiamo non solo perché è gradevole, ma anche perché ci fa bene annusarle. E poi sì, molte altre, anche diciamo la malva, ad esempio è molto gradita alle farfalle, ci fa molto bene quando abbiamo l'influenza, ma anche aromatiche più banali come il rosmarino. Abbiamo dedicato una puntata che ha avuto molto successo, le aromatiche officinali in vaso e quanto sono preziose, no? Salvia, rosmarino, basilico, le usiamo per i nostri piatti, ma in realtà hanno molti altri benefici di cui in pochi davvero sono a conoscenza. E allora, quali aromatiche ci consigli anche per ottenere delle tisane o degli infusi? Beh, la prima cosa che mi viene in mente è la salvia che ha un numero di benefici diciamo incredibili su di noi, che viene usata per infusi, tisane, decotti, che può essere messa in un'acqua del bagno. Ma prendiamo le foglie e le mettiamo in acqua? Sì, allora in effetti per l'infuso semplicemente nell'acqua. Una volta che l'acqua è bollita è possibile fare un'infusione, mentre il decotto prevede che la foglia venga messa prima nell'acqua fredda e fatta bollire. insieme all'acqua per poi essere appunto filtrata e bevuta. E poi sì, può essere utilizzata anche per una aromaterapia, mettendo ad esempio, se si ha la vasca da bagno, mettendo delle foglie all'interno della vasca, nell'acqua della vasca, e ad esempio beneficiare anche dell'aspetto aromaterapeutico della salvia. Queste cose le racconti nel libro Orti Sospesi? Sì, sì, sì, diciamo è tra le cose, le aromatiche, le officinali sono fra i suggerimenti di coltivazione molto suggeriti, in effetti, proprio perché hanno tanti vantaggi che vanno dall'offrire ristoro ai lepidotteri, alle farfalle, a quello di offrirsi delle spezie per la cucina e degli infusi e dei decotti per la nostra vita quotidiana, per prendersi cura di noi. Marina Ferrara, abbiamo i bambini in casa, non aspettiamo che abbiano 25 anni per far loro conoscere le piante e la natura. Possiamo mostrar loro come germina un seme anche se non abbiamo in casa niente, basta aprire il frigorifero. Certo, quello che si può fare ora, come giustamente dice, è aprire il frigorifero e la dispensa e cercare di coltivare con quello che abbiamo. E sono davvero tante le cose che possiamo usare, da banalmente utilizzare dei legumi secchi per farli germogliare, questo è il periodo perfetto per seminare i fagioli, lo ricordo, e quindi quello può essere senz'altro un buon inizio, ma ad esempio conservando il torsolo dell'insalata e mettendola a germogliare possiamo ottenere una nuova piantina di insalata, così come la parte apicale della carota, che di solito non si mangia mai, messa qualche giorno nell'acqua inizierà, diciamo, a darci dei nuovi germogli e poi possiamo trasferirla nella terra. Questo vale per esempio anche per le cipolle, con cui possiamo fare la stessa cosa. O ad esempio penso, se mangiamo della zucca e pulendo la zucca abbiamo, come sempre capita, dei semi, possiamo utilizzare quei semi per cominciare una coltivazione. Insomma, le cose anche che abbiamo in casa e che possiamo utilizzare sono veramente tantissime e sono infinite. E quindi ci vuole un po' di fantasia e un po' di spirito di iniziativa e anche di volontà, ecco, di utilizzare questo tempo in qualche modo per prendersi cura di sé e anche per ritrovare un contatto con la terra e la natura. Se solo ci fermassimo ad ascoltare. Quello che la terra ci dice, ci dice, ci dice. Quello che la terra ci dice. Impariamo a rispettare quello che la terra ci dà, quello che la terra ci dà, quello che la terra ci dà. Noi siamo quello che mangiamo, il cibo non nasce nel piatto. Noi siamo quello che mangiamo, il cibo è un dono di questo pianeta, non va sprecato. Tutto l'amore che dai alla terra, lei te lo ridarà. Si prende cura di te, di te, di te, non trascurarla. Ho ricordi da bambino, la voce di mia madre mi diceva: ciò che prendi non lo avanzare, ringrazia per quello che hai davanti, quei pomodori non sai quanti giorni ho passato nell'orto a bagnarli. Io volevo le pesche d'inverno, ma mi disse che ogni stagione ha i suoi frutti per gustarli meglio. Da allora alla prima ciliegia o arancia dell'anno che mangio esprimo un desiderio. E se a pranzo avanzavamo la pasta, il giorno dopo in tavola c'era la frittata di pasta. Riutilizza il cibo, non buttarlo, la fantasia è l'ingrediente più prezioso per sfruttarlo. Siamo ai saluti. Vi aspetto domenica prossima nel giardino di Radio 24, sempre a metà pomeriggio alle 15.30. Se non riuscite, vi ascoltate in podcast quando volete sulle piattaforme in Google o al sito radio24.it cercando il giardino segreto. Restiamo ottimisti e prudenti e proviamo ad allearci con le piante. Una buona settimana da Roberta Pellegatta. Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta.